8. Ascolta i testi e indica l'azione completa, finita. 1. Quando sono arrivata, squillava il telefono. 2. È caduto mentre correva. 3. Sono arrivati mentre dormivamo. 4. Quando siamo partite, pioveva a dirotto. 5. Ci hanno salutato mentre uscivamo.